Bismillahi Rahmani Rahim, nel nome di Allah, il sommamente misericordioso, il clementissimo. Disse il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la ben gloria, Innal ulama warisal anbiya, che significa in verità coloro che sanno sono gli eredi dei profeti. Premessa introduttiva. Affinché la trattazione di qualsiasi tema sull'Islam sia esauriente ed efficace, è necessario esporre in via preliminare i principi generali della visione islamica del mondo, dell'uomo, della posizione dell'uomo nel mondo, del significato della vita, mettendo a disposizione dello studioso le coordinate del reticolo concettuale islamico, onde offrirgli la chiave di lettura della realtà che apre la porta della verità. È necessario quindi illustrare con precisione linguistica e concettuale le risposte dell'Islam ai quesiti fondamentali che l'uomo si pone riguardo a se stesso e al proprio destino, costruendo per lo studioso il quadro di fondo in cui si colloca nel sistema di vita islamico la trattazione del tema che forma l'oggetto dello studio. Per forza di cose, i primi dati devono, logicamente, riguardare le fonti in ordine alle quali c'è da dire subito che la fonte originaria della dottrina islamica è il sublime Corano. Per il musulmano, il sublime Corano, oltre a essere il testo fondamentale della dottrina islamica del mondo, è anche la fonte normativa del comportamento, la sorgente da cui provengono le regole di vita da tradurre in linea di condotta. Autore del sublime Corano è Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, e non già Maometto, come l'orientalistica europea impone a chi, considerandola oracolo infallibile, a essa incautamente si affida. Nel sublime Corano, miracolo perenne con cui Allah rifulga lo splendore della sua luce, indiscutibilmente accredita Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, come suo profeta e apostolo, l'informazione principale è l'affermazione dell'unità, unicità e unipersonalità divina del creatore di tutto ciò che esiste. Egli rifulga lo splendore della sua luce nel mentre rivela agli uomini che la condizione umana sulla terra è la condizione di creatura, rivela se stesso nella veste di creatore di tutto ciò che esiste e quindi anche dell'uomo. Nell'ottica islamica, il rapporto fondamentale di cui l'uomo è parte è il rapporto che oggettivamente lo lega ad Allah, rifulga lo splendore della sua luce, quello di creazione, rapporto nel quale egli, l'uomo, è soggetto oggetto dell'atto divino della creazione. In questo rapporto oggettivamente esistente, a prescindere da ciò che riguardo a esso l'uomo creda, Allah rifulga lo splendore della sua luce in quanto creatore, si trova in posizione di sovranità, mentre l'uomo, nella sua condizione di creatura, si trova per sua natura in posizione di oggettiva sudditanza. La sovranità di Allah sull'universo e su tutto ciò che vi è in esso è inseparabilmente legata alla sua posizione di creatore, posizione dalla quale discende che egli, per diritto di autore, è il padrone e il signore di tutto ciò che esiste. L'esistenza di ogni realtà creata si svolge in conformità del progetto divino in base a un complesso di leggi che tutto regola e nulla lascia alla casualità. Così anche l'esistenza dell'uomo, nel più vasto quadro dell'esistente, ha ricevuto un regolamento divino. Però, a differenza di tutte le altre realtà del creato che obbediscono necessariamente per loro natura alle leggi che ne regolano l'esistenza, l'uomo non è necessitato all'obbedienza, avendo ricevuto, per quanto riguarda l'obbedienza al regolamento divino della sua esistenza, il dono distintivo della libertà di scegliere il suo comportamento, il cosiddetto libero arbitrio. La libertà di scelta è funzione del destino finale dell'uomo, che è un destino ultraterreno, la cui qualità dipende dalle scelte di vita nell'esistenza terrena. Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, per mezzo di uomini eletti, ai quali ha affidato nel corso dei secoli la missione apostolico-profetica, ha rivelato agli uomini le regole di vita da seguire per la realizzazione dell'umanità autentica in questo mondo e dell'eterna felicità nell'altro. Gli eletti sono i profeti, la pace su loro, i quali hanno rivolto all'uomo l'invito a prendere coscienza della sua condizione di creatura e a riconoscere che la sovranità appartiene oggettivamente e in esclusiva al creatore. Per questa sua posizione di creatore e di sovrano, Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, è l'unico titolare del diritto di ricevere il culto di adorazione e l'obbedienza alla sua legge da parte dell'uomo. Ciascuno dei profeti ha invitato gli uomini e le donne del suo popolo a vivere la loro umanità secondo il modello di vita rivelato per suo tramite da Allah, rifulga lo splendore della sua luce, e tutti i profeti precedenti al profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: Adamo, Noè, Abramo, Mosè, il Cristo Gesù, figlio di Maria, e tutti gli altri di cui qui non viene fatto il nome, la pace su di loro, hanno predicato ai destinatari del messaggio divino di cui erano portatori il dovere dell'obbedienza ad Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo. In altre parole, ciascuno di loro ha predicato l'Islam, che è l'obbedienza al regolamento della vita umana stabilito da Allah, rifulga lo splendore della sua luce, perché l'uomo possa vivere a misura d'uomo in questa vita e guadagnare il paradiso nella vita ultraterrena. Il grande numero di profeti e di apostoli di Allah, su loro la pace, è dipeso dal fatto che nel corso della storia umana, in molte generazioni, ci sono stati uomini i quali, ingannati dalla vita terrena e da Satana, hanno confezionato filosofie di vita e religioni fuorviando le genti dalla verità dopo che erano tornate a essa grazie all'insegnamento dei profeti che Allah rifulga lo splendore della sua luce aveva suscitato per ricondurle sulla diritta via, la via dell'Islam. Infine, per dare all'Islam una forma perfetta e preservarlo dalle manipolazioni, Allah sia gloria a Lui l'Altissimo, affidò la missione apostolico-profetica universale all'illetterato Muhammad, che Allah lo benedica e la ben gloria, nativo della Mecca in Arabia. La missione affidata a Muhammad, che Allah lo benedica e la ben gloria, fu quella di comunicare non solo al suo popolo, gli arabi, ma agli uomini tutti la parola di Allah, il sublime Corano, e per esemplificarla con la sua vita, la nobile Sunna. Il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la ben gloria, è il sigillo della missione profetica e apostolica e con il sublime Corano, il magnifico libro di Allah, nei suoni e nella scrittura della lingua araba, l'ineffabile parola dell'ente divino, Allah, assume la forma dell'esistente chiudendo per sempre la rivelazione.